Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. È stata messa a punto dall'equipe medica del Grande Ospedale Metropolitana di Reggio Calabria, in collaborazione con centri nazionali e internazionali, una tecnica innovativa per il trattamento del danno polmonare acuto legato a Covid-19. A Obiettivo Salute il dottor Pierpaolo Correale, direttore dell'oncologia medica dell'Ospedale di Reggio Calabria, che insieme al dottor Macheda ha ideato la tecnica. Il danno polmonare acuto è la causa la causa di mortalità principale legata al Covid. Si tratta di un processo infiammatorio che si manifesta all'interno del polmone e purtroppo è fortemente accelerato dall'uso di ossigeno, che per questi pazienti è indispensabile. Perché l'ossigeno è pericoloso? È pericoloso perché va a spegnere i processi naturali che fermano l'infiammazione, tra questi un mediatore che si chiama adenosina. Quindi che cosa abbiamo fatto? No, siccome l'ossigeno è indispensabile, non può essere evitato, abbiamo somministrato dall'esterno, con una tecnica di aerosol ideata dal dottor Macheda, l'aerosol direttamente nel polmone infiammato e abbiamo ottenuto con questa adenosina una sospensione immediata del processo infiammatorio, quindi con una qualità di vita e processi praticamente che si sono immediatamente risolti anche radiologicamente. Nello caso specifico i risultati sono così entusiasmanti che abbiamo presentato subito ad AFA uno studio clinico randomizzato, quindi vuol dire randomizzato, ci confrontiamo con i trattamenti più consolidati. Questo studio dovrebbe essere a livello nazionale e potrebbe coinvolgere anche centri americani con cui è partito il razionale dello studio, che è consolidato da più di 15 anni. E tra le conseguenze dell'infezione provocata da SARS-CoV-2, un costante aumento della pressione arteriosa sistemica, quanto suggerisce uno studio condotto dai ricercatori dell'Università Statale di Milano, che commentiamo insieme al dottor Marco Vicenzi, ricercatore all'Università di Milano, che ha partecipato allo studio. Lo studio pubblicato sull'European Respiratory Journal è stato condotto su persone che abbiamo ricoverato nelle prime settimane di emergenza e consiste nell'osservazione nel legame diretto tra l'incremento della pressione arteriosa sistemica misurata al braccio e il degradamento della capacità respiratoria. Il meccanismo alla base da noi ipotizzato è che il virus interagisca in modo diretto con quei meccanismi fisiologici che regolano il tono vascolare, provocando un irrigidimento delle piccole arterie e quindi a livello del circolo sistemico un incremento della pressione arteriosa che si misura al braccio e a livello del circolo polmonare un peggioramento del respiro. Dati questi risultati, uno degli atteggiamenti che i medici possono adottare per controllare i pazienti affetti da SARS-CoV-2 è quella di mantenere la pressione bassa con dei farmaci che abitualmente possono essere usati per il controllo della pressione arteriosa e che la letteratura ci sta indicando come efficaci nel controllare la malattia. Per oggi è tutto. Sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute potete trovare una pillola di salute dedicata alla salute, per l'appunto, ma anche al benessere delle nostre ginocchia, insieme al professor Roberto D'Anchise. Vi aspetto domani a mezzogiorno per Obiettivo Salute Weekend. Vi aspetto, non mancate.